leggo alcune righe del libro di Boris. Dice: consideriamo un insieme di tre elementi, A, B e C. I suoi sottoinsiemi sono notoriamente più numerosi dei suoi elementi. Anche questi, presi singolarmente, possono essere considerati come sottoinsiemi. In più abbiamo AB, AC, BC e, se si vuole, anche ABC. Se poi A e B vengono visti come prototipi suscettibili di essere replicati, potremmo avere AB, ABC, ABC, BC e così via, all'infinito. Sappiamo che il nostro cervello è composto di alcuni miliardi di cellule, della cui azione la mente può servirsi anche replicandola a piacere. E mi fermo qua. Adesso vi leggo un altro punto del libro. Il lago delle storie riflesse. Vicino al paese di X c'era volto un lago, anzi ci sarebbe ancora, se ci fosse il paese di X, ma il paese di X non c'è più, come vedremo. A vederlo era un normale lago, non troppo grande né troppo piccolo. Pesci non ne conteneva, neppure rane e salamandre. L'acqua era troppo fredda per farci il bagno, e a berla non si sa. Nessuno l'aveva mai bevuta, forse per paura o per rispetto. Sì, perché il lago aveva una strana proprietà. Accoglieva e tratteneva tutte le storie che gli venivano consegnate. Molti, infatti, andavano dal lago ad affidargli le loro storie, vere o false che fossero, inventate o realmente accadute. Di certe storie c'erano anche due o più versioni. Fatti identici o simili si trovavano in più di una storia. Ma com'è che un fatto si poteva dire identico o simile a un altro? Il lago, comunque, non stava lì per dirimere, sezionare, giudicare, ma solo per conservare e per trasmettere. Uno bastava che andasse al lago, si fermasse sulla sua riva e dicesse ad alta voce il titolo di una storia in argomento o il nome dei personaggi, ed ecco la storia comparire davanti, riflessa nelle acque del lago. Riflessa come? Come in uno specchio, si dirà. Ma che cosa vi si vedeva riflesso? Nessuna testimonianza è stata mai chiara su questo punto. Alcuni parlavano di scritture, altri di immagini, altri di pensieri pensati da fuori invece che da dentro. Una circostanza era però confermata da tutti. Sul fondo di ogni storia ciascuno vedeva riflessa la propria immagine, come se lui fosse in ogni storia o anche ogni storia in lui. Ma si domanderà, se uno andava al lago a rileggervi una storia personale, cosa succedeva? E certo, allora ci si vedeva due volte, l'una come personaggio della storia e l'altra come uno suo sfondo. Alcuni andavano al lago per divertimento, come si va al cinema. C'era chi andava al lago oppure andava per studio o si riconosceva, e quindi altri ancora, come già detto, ci andavano per depositare la storia. In breve, non c'era persona di X che non avesse consuetudine con il lago e i suoi riflessi. Sembrava anche che la sua capacità di conservare, di riflettere, non avesse limiti. Poi però capito il fatto per cui non possiamo neppure più dire con certezza se quel lago esiste ancora o se è mai esistito. Il suo punto di riferimento geografico, il paese di X, un certo giorno si trasferì tutto intero, con le sue vie, le sue piazze, i suoi abitanti, dentro il lago, diventando una delle sue innumerevoli storie riflesse. E così del lago stesso non resta altra traccia se non quella riflessa nella storia che vi ho raccontato. Bene, qui, nello stesso libro, come è piuttosto evidente, Boris utilizza in questi due brani due stili di pensiero completamente diversi. Quest'ultimo si fonda sull'immaginazione, sulla metafora, sull'evocazione, anche se c'è dentro sempre un pensiero logico che la guida molto coerente. Prima invece, nel brano di prima, ha a che fare con un'esposizione dell'insiemistica matematica, quindi un linguaggio informativo, diciamo molto scarno, senza nessuna parte metafora particolare, e basta. Bene, questa possibilità di passare da uno stile all'altro e di modularli è una delle cose più importanti che possiamo sviluppare nella vita. E come accade che se siamo focalizzati su uno stile, abbiamo uno stile preferenziale, magari un certo giorno ci apriamo ad altri stili? Un esempio forse ce lo dà lo stesso Boris, che ci sta scrivendo un libro sugli stili di pensiero. Non credo che una volta Boris avrebbe scritto una storia come questa, o ecco tante altre che sono contenute nel libro. Boris, come compositore, ha vissuto l'esperienza di Darmstadt, e quindi la musica seriale, quindi una musica concettuale, una musica che con l'emozione, con le metafore, c'è abbastanza, direi, poco che fare. E quindi probabilmente prima parte della sua vita Boris è vissuto come intellettuale altocolto nella classica cornice altocolta che utilizza il pensiero, l'intelligenza linguistica, utilizza l'intelligenza matematica, la logica, il ragionamento e assai meno il pensiero evocativo, immaginifico, le metafore, che sono un altro tipo di linguaggio e un altro tipo di stile. Beh, Boris com'è che è cambiato? Posso dire una cosa che sanno tutti. Boris un giorno incontrò Paola e con l'incontro con Paola, sua moglie attuale, gli è cambiata la sua vita. Prima di incontrare Paola era in una forte crisi. Si chiedeva perché, dove vado a parare, qual è lo scopo di tutto quello che faccio e non si riusciva a dare risposta. Dopo l'incontro con Paola, il suo stile di, tipo, stile di pensiero, che rischiava di inaridirsi, è stato fecondato da un altro tipo di pensiero. Il tipo di pensiero di Boris era uno stile di pensiero altocolto che tende alla visione elitaria, alla visione questo è meglio, questo è peggio, il giudizio, e quindi sappiamo bene, no, come sono i mondi accademici. Con Paola incontrò invece una persona che aveva vissuto, tra l'altro, in un paese completamente diverso dal nostro, viene da Zagabria, Paola, nel periodo buono dell'epoca di Tito, quando gli abitanti della Jugoslavia imparavano a rapportarsi tra loro dando molta importanza all'insieme, anziché ai singoli individui. Cioè, singoli individui, in un certo senso, imparavano a non essere al centro del mondo. E quindi, per esempio, mi diceva Paola che quando lei andava a scuola vedeva che tutte le persone che frequentavano la scuola, sia gli insegnanti che gli allievi, erano fieri che la scuola fosse una bella scuola, fosse tenuta, e la tenevano meglio possibile, meglio di casa loro. E quando Paola si trasferì poi in Italia, a Firenze, continuò a mantenere questo tipo di atteggiamento, di apertura. A casa sua era una casa aperta a tante persone che avevano le chiavi, quindi Paola ha un senso della proprietà privata molto scarso. Ecco. E questo contaminò profondamente il pensiero di Boris. E da lì, dalla coppia Paola-Boris, possiamo imparare come quando gli stili di pensiero sono molto differenti, e anche i metaprogrammi, e anche i tipi umani, cominciano a dialogare e si intendono a livello intenso e profondo, creano veramente una nuova realtà. Boris e Paola hanno un figlio, Thomas, che adesso tra l'altro è un figlio che ha studiato le lingue, si occupa di cose un po' lontane da quelle di cui si erano occupati il papà e la mamma, anche se, diciamo, sicuramente il modello metaculturale l'ha introiettato e lo sta praticando a suo modo. Oltre il figlio in carne ed ossa, loro hanno un figlio, diciamo, spirituale, chiamiamolo così, che è la costruzione del loro pensiero, che è veramente del tutto originale. Originale non per le dichiarazioni di principio, che sono condivise ormai da molti pedagogisti, ma per il modo con cui ci sono arrivati e per il modo con cui le attuano queste idee. Perché sta proprio lì la differenza, perché tutti bene o male sono interessati all'auto-organizzazione, allo sviluppo del pensiero critico, a parlarne sono bravi tutti, poi a svilupparlo chi è capace. Ecco, lì da Boris, proprio per questa commistione di stili di pensiero diversi, si è riusciti a creare un nuovo organismo, e Boris in fondo, sai, come ciascuno di noi, poi parliamo sempre di noi stessi, in questo libro Boris parla di sé, parla di sé, di come attraverso la sua esperienza di vita, perché è quella che poi genera, è arrivato allo stile di pensiero metaculturale.